Ma sì, ma lo sai qual è il vero problema? È la telefonia. Ok. La telefonia. Quando uno deve sentirsi per messaggio, beh, lì è un casino tutte le volte. Va bene, io ti chiamavo perché sto registrando un pezzo su un beat di quelli che mi avevi dato. Su Dal Reggae al Futuro Nostalgico, che la sto registrando ora. E si chiama L'Ultima Speranza il pezzo. E niente, ora io sono con Mel che sto registrando, te sei in viva voce, quindi quando vuoi mi dici qualcosa per riassumere Roger Luciano, Fat MC, L'Ultima Speranza. Ok, vabbè, fammi registrare e te la dico subito. Gesemu? Gesemu. Faccio bene, Fat MC, Roger Luciano, L'Ultima Speranza, e ci siamo ancora per la base del testo. Faccio bene, Imperia, e siamo fuori. Fuori splende il sole, ma da solo sposto merda con i panni. Dammi tre parole, dammi il tempo di risistemare. State calmi che conosco le vostre facce di plastica. Con gli occhi che si mischiano al cielo con la Via Lattea. Dimmi di chi chiacchiera di me, chiudi la porta. Sprecate il fiato a caso come spegnere una torta. E non ho mai espresso manco mezzo desiderio. Gli incubi mangiano i sogni e sui fogli diventi serio. Io mi ingegno per striziare le meningi e poi mi salvo. Io mi impegno, cago ancora liricismi a doppio taglio. E voi che vi sognate il futuro dentro la tele. Basta un cavo che si stacca e vi spegnete come il verme dentro le mele, le pere dentro le vene. Masticano bene seme, chi geme non gli appartiene. Possiamo starcene assieme, basta che facciamo finta. Che sta vita non sia nostra e comunque qui non si vinca. Vivi l'ultima speranza prima che finisca tutto. Se il giorno più lungo del mondo è il più brutto. Senti le vibrazioni se quando giri là fuori. Apri gli occhi e ci provi, chiudi gli occhi e ti inchiodi. Vivi l'ultima speranza prima che finisca tutto. Se il giorno più lungo del mondo è il più brutto. Senti le vibrazioni se quando giri là fuori. Vedi in cielo gli avvoltoi, sai che aspetta. Che muori, loro aspettano che cada, ma tranquillo non lo faccio. Cingo la caduta a terra, mostro il dito e mi rialzo. E rimbalzo su sti suoni finché cado nella rete. Segno tre punti dalla luna, sentite, non ci credete. E voi volete che mi spenga come vita che finisce. Come quella di chi muore volando sulle strisce. Qui non si conclude tagliando una mano nude. Quell'amaro nella bocca rinchiude in camere oscure. E poi sparo sugli avvoltoi, dimmi ciò che vuoi. Ma un b-boy digitalizza l'Italia dei giorni tuoi. E poi c'è chi si impicca al lampadario e dice addio. C'è chi fingeva di conoscerlo, c'è chi diceva anch'io, e Dio che mi insegnavano potesse consolarmi. Ora mi ha lasciato il cuore, ma io fra non so che farci. Intingo la mia penna mentre fuori splende il sole. Vivo l'ultima speranza nella stanza, le parole. Vivi l'ultima speranza prima che finisca tutto. Se il giorno più lungo del mondo è il più brutto. Senti le vibrazioni se quando giri là fuori. Apri gli occhi e ci provi, chiudi gli occhi e ti inchiodi. Vivi l'ultima speranza prima che finisca tutto. Se il giorno più lungo del mondo è il più brutto. Senti le vibrazioni se quando giri là fuori. Vedi in cielo gli avvoltoi, sai che aspettano che muori. Roger Luciano, Fat MC, 89 BPM, bro. L'ultima speranza, hip hop underground italiano. Savona, Imperia, Genova.